Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A casa mia, il titolo del film subiva una modifica. Diventava: pronto? C'è un certo Giuliano per te. Perché ero innamorata persa, di un mio compagno di scuola, che si chiamava così. E ogni volta che mi telefonava, mio padre mi prendeva in giro e mi chiamava ripetendo le parole della canzone. Ciao, mi chiamo Patrizia, sono una milanese trasferita a Monza da molti anni. Insegno lettere al liceo scientifico da una vita. Sono sposata e ho due figli. Agosto, ti affacci su un cuore malato. Le 5 di sera ed è già buio, pesto l'inverno d'agosto. Il ghiaccio si posa e ricopre le cose. L'attesa del caldo congela anche i morti. Che freddo che fa. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo allora, perché tremi in questo agosto, perché tremi in questo agosto, perché tremi in questo agosto. Non avete sbagliato radio, non avete sbagliato orario, sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Noi continuiamo a raccontare storie, ma oggi lo facciamo in maniera un po' diversa. Oggi inauguriamo una nuova campagna, una nuova branca, diciamo, di questo programma, che sono i mercoledì live at Voi Siete Qui, ogni mercoledì del mese, ogni primo mercoledì del mese, ogni tanto, il mercoledì del mese di ogni tanto avremo un live in diretta qui dagli studi di Radio 24 e cominciamo oggi con Iperturbazione. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a Gigi, Tommaso e Cristiano, giusto? Esatto. Ne manca qualcuno però. Tre sesti, sì, siamo... Siete la metà secca. Mancano Elena, Alex e Rossano, batteria, basso e violoncello. Che non vogliamo sapere dove sono esattamente, però immaginiamo a casa a fare altro. Sì, loro mandano avanti noi quando c'è da fare il lavoro sporco. Allora ragazzi, siamo qui noi perché vi abbiamo invitato, abbiamo piacere di cominciare a raccontare storie con la musica dal vivo qui dallo studio, e voi perché invece dovete semplicemente presentare un disco nuovo che è uscito da poco, insomma. Sì, lo scorso maggio. Lo scorso maggio, che è un periodo di tempo non in realtà proprio usuale, no, per presentare un disco. Di solito lo si fa proprio a ridosso, però c'è stato... Ma noi ci definiamo un gruppo diesel, okay. Abbiamo questa ripresa. Iperturbazione direttamente da Torino, anzi da Rivoli, ho scoperto. Sì, provinciali. E continuate a vivere, a parte tu, me, Tommaso. Che sono il cantante, mi sono spostato a Torino per fare la star, ma gli altri rimangono in provincia. Rivoli era troppo grossa per entrambi. Quanti abitanti ha Rivoli? Rivoli ne fa 50.000, una cosa del genere. Vabbè, 50 è una città famosa per il castello di Rivoli. Museo di arte contemporanea. Cosa c'è adesso? Sapete che mostra c'è? C'è una mostra di arte contemporanea. 349-238-6666, siamo in diretta con Iperturbazione, Voi Siete Qui, racconteremo una storia ovviamente come facciamo sempre. Oggi è la storia di Patrizia, che parla, non a caso, parla di musica, parla di una voce e parla di quella sensazione di un brano che ti lega alla tua adolescenza e che ti fa, ha usato lei questi termini, illanguidire il cuore. 349-238-6666, ma anche il profilo Facebook del programma, che Voi Siete Qui, Radio 24, e Twitter ovviamente. Mi sono dimenticato di dire una cosa, che questo diventerà ovviamente un podcast audio che vi potete scaricare e sentire i brani di Perturbazione oltre che alla storia di Patrizia, ma diventerà in realtà anche un video grazie alla mano delicata di Marco Ligabue, che è in questo momento in studio con noi. Siamo alla metà di 1000, devo dire, in questo studio, comincia già a fare un gran caldo, e a breve, Marco, tra quanto? Due giorni? Una settimana? Facciamo una settimana, troverete il video sul nostro canale YouTube in modo da spargerlo più possibile per la rete e anche nella vostra anima, se volete. 349-238-6666. C'è una canzone della vostra adolescenza che vi fa illanguidire il cuore, Tommaso? Una canzone che quando avevi 13 anni, 15 anni? Ma io i Cure, tutta la discografia, le mettevo su e giù le lacrime. Charlotte Sanchez direi in particolare. E invece vi ricordate qual è stata la prima canzone che avete composto? composto un pezzo che si chiamava addirittura Nirvana, prima ancora che Nirvana esistessero. Era una canzone strumentale, se non una delle prime cover che abbiamo eseguito tutti insieme. Era proprio una dei Cure in un sabato pomeriggio a casa mia, ed era un pezzo tratto da 17 Seconds, In Your House. Ragazzi, voi siete un gruppo, cerchiamo prima una definizione, che fa sempre schifo, no? Cercare di incasellare tutto. Siamo un gruppo che fa sempre schifo. No, fa sempre schifo cercare di incasellare tutto. Che gruppo siete, che musica fate, che film è, che brano è, che libro è. Però, allora, Wikipedia dice che siete, in realtà Wikipedia si contraddice. I Perturbazioni sono un gruppo musicale pop rock italiano, e poi però nella schedina dice genere indie rock. Beh, è la contraddizione in fondo. Cioè, noi veniamo da quel mondo dove più o meno ti organizzi le cose da solo, soprattutto quando abbiamo iniziato a suonare, quindi i primi concerti qualcuno porta l'impianto, qualcuno porta la gente e così via. E veniamo da quel mondo lì che è cosiddetto indie, nel senso che è indipendente anche per necessità. Non abbiamo mai fatto mistero del fatto che invece, insomma, noi si speri sempre di suonare per un pubblico il più ampio possibile. Pop però che in fondo sono, è uno simbolo stesso, perché il rock forse è qualcosa di rivoluzionario, il pop è qualcosa invece di non conservatore, ma in qualche modo è cercare di raccontare le cose con una certa ironia, un po' di glitter, ecco, probabilmente. Voi adesso non li vedete perché siamo in radio, ovviamente, però posteremo delle foto e vedrete il video. Voi non avete proprio la faccia da rocker, ragazzi. Se uno vi vede e vi dice, secondo me potrebbero essere dei docenti universitari, magari, che so, qualche anno fa assistenti, adesso, che so, avete la cattedra, avete... Perché molto spesso è più facile avere la faccia che esserlo fino in fondo. Passa una settimana con noi e ti renderai conto che... 349-238-6666. Ci sono dei brani che fanno illanguidire il cuore delle persone che ci ascoltano, che sono Liberi Liberi di Vasco Rossi, scrive Mattia. Diego scrive Somebody di dei Depeche Mode, credo. Che Somebody è quel pezzo che non cantava lui, cantava l'altro. Ci venisse un nome. A me non chiedete nomi, non chiedetemi i nomi perché non me lo ricordo. Però suonava il chitarrista. Sì. 29 settembre, scrive Tommaso. E poi ancora Antonio scrive Gutter Ballet dei Savatage. Dei Savatage. E qui si va sul territorio metal, probabilmente. O R americano. So. Probabile. 349-238-6666. Siamo in diretta con Iperturbazione per quello che è il mercoledì live di Voi Siete Qui. Parliamo di canzoni che illanguidiscono il cuore. Intanto arrivano i messaggi per voi anche, ragazzi. Fantastici. Non me l'aspettavo a Radio 24. E poi ancora è arrivato un messaggio di Francesca che dice io vi adoro. Prima ne parliamo dopo, però prima con Gigi diciamo qual è il vostro fan tipo, che persona avete, un'idea, avete un profilo? No, una volta avevamo dei profili dei proprio come quelli del FBI, cioè, li conoscevate quando... per nome, esatto. Ce ne avevate su una grande parete nella sala prove, esatto. E dicevate non farlo entrare in camerino, no. Esatto, e avevamo proprio questo profile molto ben definito, perché in camerino questi non dovevano entrare, in realtà ci entravano sempre e ci ritrovavamo silenziosi che ci fissavano e non sapevamo nemmeno bene come interagire. Poi invece il pubblico è cambiato, nel senso che ne sono arrivati altri, ed ora è molto piacevole dopo un concerto intrattenersi con le persone. È sempre Voi Siete Qui, non mi hai detto il contrario prima, Gigi, però è sempre Voi Siete Qui, è sempre in diretta Radio 24, sempre con Iperturbazione. Torniamo a fare quello che facciamo di solito, raccontiamo storie. Questa è la storia di Patrizia ed è la storia di un brano e di una voce che illanguidiscono il cuore. Pronto? C'è una certa Giuliana per te. È il titolo di un vecchio film di quando ero ragazzina. Parlo dei tempi del ginnasio, una vita fa. A casa mia il titolo del film subiva una modifica. Diventava Pronto? C'è un certo Giuliano per te. Perché ero innamorata, persa, di un mio compagno di scuola che si chiamava così. Giuliano. Era un fanatico dei Beatles, dei Rolling Stone, di qualsiasi canzone passassero su Radio Luxembourg, l'unica che allora in Italia trasmettesse musica pop. Stavamo in piedi fino a mezzanotte, tra una versione di Greco e una tazzina di caffè, per sentire la musica che ci piaceva. E a Giuliano piaceva la musica, piaceva da morire. Quando uscì Hey Jude dei Beatles, la prima canzone, che durava 6 minuti, mi pare, che quindi era un traguardo ambitissimo alle nostre feste perché ci permetteva di rimanere abbracciati senza imbarazzo con il ragazzo che ci piaceva abbastanza lungo, ecco, ricordo che quando uscì, Giuliano mi chiamò per farmela sentire. Giuliano è un mio compagno di classe che sento ancora adesso a volte. Mi aveva colpito tantissimo la prima volta in cui l'ho visto. ed è rimasta una persona molto importante nella mia vita per la sua eleganza, per la sua cortesia e per la gentilezza che ha sempre avuto nei miei confronti. Nessuna nota mi ha più fatto lo stesso effetto. Sulle note di quella canzone sono volata tanto in alto quanto poi sono caduta in basso, quando le mie fantasie sono crollate miseramente sui suoi baci e sulle sue carezze ad un'altra ragazza. Per fortuna però a 15 anni l'amore passa in fretta. Mi bastò rivederlo dopo le vacanze estive, tremendamente alto, cresciuto con la velocità incredibile dei maschi adolescenti, per non provare più nulla per lui. Troppo alto. Io sono piccola, gli uomini troppo alti non mi piacciono. Ma quella sensazione di languore dolcissimo che è durata 6 minuti evidentemente non si è mai spenta dentro di me. È rimasta lì, ad aspettare il momento giusto per risvegliarsi esattamente un paio d'anni fa, quando ormai credevo di essermene dimenticata. Avevo già rivisto Giuliano qualche anno prima, ad una cena con dei vecchi compagni di scuola, ma non mi aveva fatto nessun effetto. Solo la gioia di ricordare un'adolescenza serena insieme. Comunque mi aveva raccontato che della sua passione per la musica aveva fatto il suo lavoro, un sogno realizzato, una bella favola. Una storia che mi è venuta in mente quando mio figlio mi ha parlato di un suo amico aspirante cantante e autore di musiche e di canzoni, alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarlo a farsi strada. Ho pensato a Giuliano e ho deciso di chiamarlo sul cellulare. Non mi ha risposto, allora io poi mi sono rimessa ai fornelli, ho dimenticato la musica, l'amico di mio figlio e mi sono concentrata sulle zucchine. Pochi minuti dopo è squillato il telefono. Pronto? Sono Giuliano. Mi ha chiamato lei poco fa. Ho trovato il suo numero sul cellulare. Quando ho sentito così all'improvviso la voce di Giuliano, mi sono sentita davvero trascinata indietro nel tempo. Ho capito la differenza tra la memoria volontaria ed involontaria. Ho davvero rivissuto la stessa emozione che avevo vissuto quando avevo 15 anni, quando mio padre mi diceva: pronto, c'è un certo Giuliano per te. Fortuna che per rispondere avevo abbandonato le zucchine e mi ero seduta. Da seduti è più facile passare da una condizione di moglie, madre e prof, non più giovane per di più, al languore adolescenziale più folle e delirante, dalla banalità di una cucina alle 7:30 di sera all'eccezionalità di una festa proibita a 15 anni. Per giorni la dolcezza ha continuato a stillare dentro di me ogni volta che ripensavo al suono della voce di Giuliano. La vita è semplice, siamo noi, con la nostra testa, sempre vigile, che la rendiamo complicata. Dimentichiamocelo un po', questa testa così ingombrante, ascoltiamo il nostro cuore, facciamo qualche sciocchezza, ogni tanto. E intanto le note di Hey Jude continuano a suonare. Ho scritto un'email a Giuliano qualche giorno dopo per spiegargli quello che mi era successo. Mi è sembrato giusto, mi sembrava di doverglielo, gentile come era stato. Mi ha risposto con la cortesia di sempre. Anche per me è stato un bel tuffo nel passato, mi ha scritto. Un tuffo nel passato che mi ha fatto vedere il presente con occhi nuovi, più giovani, dietro agli occhiali. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento. A mia madre non ho chiesto com'è stato il primo bacio, se si parlano d'amore e se poi lo fanno ancora. Il peccato originale segna le generazioni, siamo figli finché un giorno diventiamo anche noi genitori. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento, oppure mi accontento di non domandare mai a nessuno cosa sente. Chissà se son contento, oppure mi accontenterò. Siamo diventati adulti per abitudine, e non ci sorprendiamo più delle battute, i manuali, il porno, i cellulari, gli astucci vuoti dei preservativi abbandonati, i baci in bocca a scuola vietati, la trappola di amori idealizzati. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare ma a nessuno cosa sento. Chissà se son contento oppure mi accontento di non domandare ma a nessuno cosa sente. Con mio padre non ho mai parlato di sesso, mi domando con mio figlio farò lo stesso. Chissà se son contento oppure mi accontento di non domandare ma nessuno cosa sente. Con mio padre non ho mai parlato di sesso, mi domando con mio figlio farò lo stesso. Chissà se mi accontenterò. In perturbazione dal vivo a Voi Siete Qui a Radio 24, sempre non cambiate, non avete sbagliato, è sempre la Talk Radio italiana, l'unica Talk Radio rock di questo paese. Radio 24, Voi Siete Qui, le 16:24 minuti. Questo pezzo si chiama Baci Vietati, giusto? Yes. Ed è dall'ultimo disco, che invece si chiama Musica X. Dove si prendono i dischi oggi? Cioè, se voi doveste dire a chi vi ascolta, ci trovate su perturbazione.com o sul sito della Mescal, che è l'etichetta che ha prodotto il disco. È stato per un mese in edicola con X di Repubblica, però adesso non più, quindi adesso non più, c'è una versione in vinile che esce tra pochissimo. In vinile è fighissimo, raffinatissimo. Sì. Questo la quanto versione in vinile uscirà nei negozi anche. Quanto costa un vinile oggi? Intendi cioè comprare negozi, sì, comprare un attatto nella ventina di euro più o meno, dai 17-18 fino ai 25. La Mescal, che è la vostra etichetta discografica, sì, giusto? Tra l'altro lo diciamo prima, che di solito quando si vedono dei gruppi arrivare arrivano con un ufficio stampa, che di solito è una ragazza molto molto carina. Voi siete arrivati con un ragazzo con la barbona e i capelli ricci, che però ha la faccia molto simpatica. Noi grazie a lui però di ragazzi ne attiriamo molto di più così. Voi tra l'altro siete tutti sposati, voi avete fatto una famiglia all'interno del gruppo. Gigi, stai con sì, Elena, che è la con Tommaso ogni tanto che è la violoncellista, contrabbassista, violoncellista. Poi si diceva anche ci sono due fratelli, che sono Cristiano, che è qui, e Rossano Lomele, che suona la batteria. Ne manca uno che invece è sfamigliato, è l'unico, è Alex Baracco, il bassista. L'abbiamo preso apposta e gli abbiamo intimato di non fare figli, è molto più giovane. Si riesce a vivere solo di musica oggi? È complicato. È complicato, si sopravvive in certi periodi, dipende dalle stagioni e cose, diciamo che è una cosa molto a corrente alternata. Quindi un pochettino uno si trova degli altri lavori, cioè si cerca il modo per avere del tempo a disposizione per suonare e dell'altro per lavorare. Sì, di solito proviamo di giorno, cioè questa è una dei tasselli fondamentali. Di solito i gruppi provano la sera, noi cerchiamo di fare questo lavoro di giorno perché sei un po' più lucido e hai ancora delle energie da dare e devi aggiungere delle cose. Devi barcamenarti togliendo quelli che sono orari d'ufficio, ecco. Quindi devi avere dei lavori, sì, un po' comunque più per non parlare elastici. Proprio del dettaglio delle bollette del telefono, che è già una cosa noiosa che ci capita tutti i giorni. In realtà a livello di musicisti siamo anche come gli ascoltatori, cioè di fatto chiunque può fare un vero lavoro, ma poi senza musica non ci vive, nel senso che sarebbe impossibile una giornata senza quelli. 349-238-6666. A proposito di musica, visto che chiediamo la canzone che vi fa languidire il vostro cuore, è proprio brutto se vi chiedo di accennarmi qualche brano che è arrivato ad esempio da Paolo, Wind of Change degli Scorpions non ve la chiedo, Raffaella, Wish You Were Here dei Pink Floyd non ve la chiedo, o vi piacerebbe Wish You Were Here? La sanno tutti i chitarristi. Andrea, One degli U2. Ma poi c'era invece la cosa che mi interessa, c'era un altro Depeche Mode, Simone, Everything Counts dei Depeche Mode. Io mi ricordo, cioè posso sì. Everything counts in large amounts. 349-238-6666. Ma c'è un pezzo vostro, però anche qualcuno che cita Lullaby dei Cures. Questa è roba nostra. Queste Voi Siete Qui in diretta, i Perturbazioni, che sono nei Cure. Sono le 16.27, questa è Radio 24 e continua a essere un talk radio. Semplicemente ogni tanto il mercoledì facciamo dei live musicali. Se mantenete questa base, vi chiedo un'altra cosa. Io ho visto un vostro concerto un paio d'anni fa al Carroponte, a Sesto San Giovanni, e sono andato con questo amico che vi adora. Però quando l'ho chiamato ho detto: andiamo a sentire Perturbazioni. Ho detto: non so se ce la faccio, perché la loro è una malinconia struggente. Voi ce l'avete addosso un po' questa etichetta della malinconia, no? Del languore. Ve la volete togliere? Ve la volete tenere? Ma io vorrei toglierla, nel senso, no, ce l'abbiamo naturale. E quindi tutto quello che cerchiamo di fare è, come il titolo di questa trasmissione, essere qui. Cioè, voi siete qui. È il punto di partenza proprio dell'ultimo disco, è quest'idea che... abbiamo fatto una musica molto basata sul ricordo, sulla malinconia in qualche modo, e a volte è meglio guardare quanto è cruda la realtà del presente per capire da dove puoi spiccare un salto e dire io sono qui, piuttosto di rimanere troppo su quel registro. Forse ha a che fare col fatto che siamo diventati genitori proprio. Se certo, ne parla nel immagino. Andiamo a chiudere purtroppo con un ultimo brano. Prima l'SMS di Fabrizio che dice: Perturbazioni sono l'ultimo gruppo che ho sentito alla Rocca di San Felice di Modena. Ora la Rocca non è più agibile per il terremoto dell'anno passato. Chiudiamo questa puntata, chiudiamo questo appuntamento, il primo appuntamento live insieme a Perturbazioni, che tra l'altro ringrazio, con uno dei miei brani preferiti, che non è per niente malinconico in Languidisce, no. Che è Mondo Tempesta. Quando ripenso a quel me stesso da ragazzo, età drammatica che non ritornerà. Se ci ripenso sento ancora gli occhi addosso mentre attraverso il centro della città. Mondo tempesta, con te ci stavo bene e in cambio ho avuto la solitudine. Mondo tempesta, con te ci stavo bene. Ah, ah, ah. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Loro sono i Perturbazioni, che ringrazio ancora, grazie a Gigi, grazie a Tommaso, grazie a Cristiano. Scaricatevi, non gratuitamente ma a pagamento, sul loro sito Musica X, che è il loro ultimo disco. Grazie a loro, grazie a tutti i tecnici che hanno reso possibile questa diretta oggi, grazie a Marco Ligabue che sta riprendendo e di cui vedrete il video a breve sui nostri canali YouTube. Grazie soprattutto a Patrizia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, io sono Mirko, vivo ad Helsinki, la storia di domani è la mia e parla di viaggi, di ricordi, ma soprattutto di Balcani. Questa è la mia storia e io sono qui.